No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Chi sei, Cruciani? Ah, i fenomeni, i grandi fenomeni, bravi, complimenti. Che vogliamo fare? Parolacce? Vogliamo fare? Che vogliamo fare? Quando una persona del pubblico chiama e dice buonasera, le fa un complimento, non lo deve trattare male. Non lo deve trattare male. No, ma ne fate un cazzare, non si può, una persona vi tratta bene e voi ancora una volta arroganti. Se parla di fregna e paresse vuole far filippino in un sassista un attimo, vattene a far culo al bagno, no? Una volta che si parla di fregna sta in mezzo al cazzo. Ah, dottore è uscito. Dottore non può parlare. Dottore è andato a fare aperitivo con professore Zaglebelsky. Dottore, intanto sta in mezzo al cazzo. Popolare, ragazzi miei, il partito di Alfano. Iniziamo così oggi, che mi sento caldissimo su questa cosa, caro Davide, mi sento caldissimo. Sì, però non io so, essere sì, lo so, tu sei un ammiratore del partito di Alfano. No, sono un ammiratore. Sei un ammiratore, sei uno che vuole mantenere una certa distanza. No, a me non frega niente, o mi fate, mi invitate, non mi pagate per non farmi parlare, parlate di Alfano. Ma io vado a mangiare a Baglioni, ma non frega niente di queste cose, niente. Allora, perché vi parlo di Alfano? Cioè, non per farvi cadere le palle alle 18:37 all'inizio delle trasmissioni. Lo so che non ve ne frega nulla di Alfano. No, io ho incontrato oggi tante persone per strada che mi hanno detto: Parenzo, per cortesia, ci può spiegare cos'è successo ad Alfano? Raggiungerà la soglia del 5? Nessuno. Cioè, l'Italia tutta in questo momento si interroga se Alfano raggiungerà la soglia del 5%. Nessun italiano si chiede se Alfano raggiungerà il 5%. Te lo posso assicurare, se c'è un malato di mente che mi chiama e mi dice io sono preoccupato oppure sto pensando oppure la mia preoccupazione quotidiana è se Alfano raggiunge il 5%, questo signore qui lo dichiaro ufficialmente in diretta malato mentale e chiamo un medico. Perché un medico. Non c'è alcun italiano che oggi si pone il problema. Tu dici? No, nessuno. Come nessuno. Dicono a Torino, lei dice? Sì, esattamente. A Torino? Torino, quando tu dici una castronata pazzesca, lo so, figlio di puttana, maledetta. Però lei già l'ha detta questa, però va bene, ripetiamo. Però va ripetuta. Sì. Lei dice? Così. Vabbè, occupiamoci per un attimo solo di quello che avviene a casa Alfano. Fallo sentire Alfano. Sì, adesso lo faccio sentire perché bellissimo, ha accettato. Anzi, manda tutta la conferenza stampa di Alfano, dai, così chiudiamo qua. Mandala. Si può, chiudiamo proprio. Allora, oggi a un certo punto questi dell'NCD, quattro gatti che sono, si sono riuniti. Quattro gatti, ragazzi. È una vita che sono passati dal centrodestra al centrosinistra senza, come dire, battere ciglio. Ma come semplicemente si chiama un nuovo centrodestra, ma fai il centrosinistra? E ti stanno col centrosinistra, però stanno col PD. Sì, ho capito, ma si chiama un nuovo centrodestra. Tu hai solo capito, in Italia, però. Amico mio. Esatto. Solo in Italia. Però comunque fatto sta che si chiama nuovo centrodestra, no, adesso con chi è alleato col centrosinistra. Adesso non più. Cosa incredibile, amico mio. Da poco si chiama Alleanza Popolare. Vabbè, benissimo, questo va benissimo. Allora, si sono riuniti in un albergo di Roma per incazzarsi con Renzi. Perché sono furibondi, perché Renzi a un certo punto dopo... Guarda, Renzi è un criminale, guarda. Sei Cicchitto. Cicchitto, sono Cicchitto. No, a proposito, partiamo da Cicchitto. Che dice Cicchitto Renzi è uno che ha pulsioni omicide. Cioè, dopo avere collaborato con Renzi per una vita... Fai poco lo stronzo. Si dimostra che Renzi è inaffidabile, nel senso che ha pulsioni omicide nei confronti di chi è alleato con lui, che lo rende inaffidabile anche per il futuro, insomma. Non mi sembra che sia la figura migliore per fare il Presidente del Consiglio. Se lo tenga il PD come segretario del partito, auguri. Signor Cicchitto, ripeto, fantastico. Grande ammirazione per Cicchitto e soprattutto per Parenzo che lo imita, ma il punto non è questo, il punto è che signor Cicchitto ha collaborato con Renzi. Sì. Adesso dice che ha pulsioni omicide, mi fanno impazzire queste cose, mi fanno emozionare perché sono bellissime, la politica quanto è mutevole, come cambia. Adesso Renzi se ne sbatte i coglioni di questi e dice Alfano ha fatto il ministro di tutto, che raggiunga il 5%. Godo. Mi permetto di dire che se quelli non prendono il 5% e stanno fuori, non è un dramma, è così dappertutto in tantissimi paesi. Cioè, se dopo anni che sei stato al governo, hai fatto il ministro di tutto, non riesci a prendere il 5% del voto degli italiani, è evidente che non possiamo fermare tutto per dare un potere di ricatto ai partitini. Ce l'ha con Alfano. Vabbè, lei ce l'ha con Angelino Alfano, dice Vespa, e se no con chi ce l'ha? Vespa, lei ce l'ha con Angelino Alfano. Ma hai sentito la sottigliezza? Renzi chiama quelli là. Sì, no, ha detto quelli là. Beh, è un genio, è una specie di despota. No, ma quelli là, è di un cinismo pazzesco, Renzi. L'unica cosa che mi piace è il cinismo di Renzi, il resto purtroppo non mi piace quasi nulla. Vabbè. Allora, un altro dell'NCD, ex NCD, non so come cazzo si chiama adesso, Alleanza Popolare, si chiama Pizzolante. Pizzolante, certo, ma stai scherzando? Ma chi cazzo lo conosce Pizzolante? Ma cosa dici? Ma vogliamo chiedere in giro alla gente, lei conosce Pizzolante? Ma Pizzolante, famosissimo Pizzolante. Chiamiamo a casa gli italiani, ti prego, adesso io voglio chiamare per caso degli italiani. Lui, scusi, lei conosce un signore che si chiama Pizzolante? Pizzolante, certo, voglio capire la risposta. Da questo ti accorgi, come spesso nelle altre trasmissioni. Dottore, appellitino con Pizzolante. Dottore, no, puole adesso. Pizzolante, Renzi ci ha chiesto di far fuori Gentiloni. Questo sarebbe anche una notizia. No, sarebbe. Sì. Anche il fatto che lo dica il signor Pizzolante non è una notizia, ecco, questo dici tu. Però sbagli su questo. Ma poi dai, sbagli molto. E dai. Renzi ha la smania di prendersi la rivincita dalla sconfitta sonora del referendum. Per far questo chiede da febbraio a noi di far noi fuori Gentiloni. Lui ha chiesto esplicitamente quelli del... Da febbraio lui ci chiede di far fuori Gentiloni. E in cambio? In cambio ha detto la legge elettorale scrivetela voi. Cioè noi non abbiamo, noi non abbiamo chiesto il 3%, è lui che ci ha offerto il 3, il 2, l'1, lo 0,5. Questa è la verità storica sulla quale lui non risponde. Ma voi vi rendete conto di come è fatta la politica? Io posso dirlo senza essere accusato di essere populista, di essere demagogo, dello schifo della politica italiana. Quando ragiona di queste cose, ci ha offerto questo per metterla in quel posto, a quell'altro, è la soglia del 3, è la soglia del 5, è una merda. Lo posso dire che questa politica fatta così è la dittatura, meglio Assad. No, ma che c'entra? Ma come è fatta così? Ma dappertutto, la politica, come diceva il grande Rino Formica, prendete appunti. È sangue e merda. Sangue e merda. Comunque, ragazzi, è bella anche per vedi questo. Vedi che non lo so nemmeno io. Si chiama Alternativa Popolare. Nemmeno Alleanza. Cioè, alternativa. Che vuol dire Alternativa Popolare? Vuol dire che è alternativa a chi? Al cervello. È un'alternativa, cioè, com'è? No, un'alternativa. Comunque Pizzolante. Lo stesso Pizzolante che non conosce nessuno. No, non è vero, conosco tutti. Quanto vuoi scommettere? Io faccio 5 telefonate stasera al volo, cinque. In diretta, 5 telefonate nella stessa Emilia Romagna. Di dov'è questo Pizzolante? Voglio chiamare la città di nascita di Pizzolante. Pizzolante, anzi forse quelli che si chiamano Pizzolante chiamo e dico scusi, lei conosce un politico che si chiama Pizzolante? No. Ma sì, certo, famosissimo. La risposta sarà no, vedrai. Comunque, Pizzolante, l'idea della trasparenza in politica è stalinista. Questo è interessante come cosa. Cioè, questo signore dice che essere trasparenti in politica è una roba stalinista. Infatti, si vive nel retrobottega. Senti. Perché non l'avete detta prima questa verità, che se verità è una verità molto grave? Secondo lei, se Renzi mi dice fai cadere il governo Gentiloni, io dico Renzi mi ha chiesto di far cadere il governo Gentiloni, sì. Poi il governo Gentiloni rimane in piedi? Cioè, no, cioè, voglio dire, l'idea della trasparenza totale in politica è un'idea stalinista. Poi parla pure Formigoni, scusate se vi sto rompendo i coglioni su questa cosa, abbiamo, no, ma è tanta, fondamentale, abbiamo tanta altra roba, so che ti appassiona questa cosa, a me non me ne frega nulla, ma me ne voglio liberare subito di questa roba, perché voglio sentire gente che chiama dicendo io Pizzolante non lo conosco, ma capito? No, ma perché? Io Pizzolante, sì, perché mi sono fissato, io non conoscono invece sicuramente Formigoni, le persone lo conoscono, governatore eccetera, il quale dice, attaccando Renzi, dicendo che Renzi non è credibile, cioè, dice per noi la politica è una cosa seria. Ti giuro, ha detto così, signor Formigoni. Beh, certo. Condannato, eccetera, eccetera. Ma cosa c'è? Per noi non c'entra niente, non c'entrerà niente. Per te non c'entra mai nulla. Perché ma no, dai, ma siamo non d'accordo, in modo definitivo. Ma entriamo aspetta, nel merito, figurati. Per noi la politica è una cosa. Cosa ti voglio fare sentire questa frase, ti ripeto, sentitela tutti. Per noi la Lombardia, la politica è la cosa importante. Le sembra un leader serio, uno che dice queste cose? Fate cadere voi il governo, perché io non posso far cadere il terzo governo del PD in 3 anni. E io in cambio vi prometto qualche cosa di assolutamente vago. Abbiamo detto di no, abbiamo respinto l'offerta al mittente, perché noi la politica è una cosa seria. Per noi la politica è una cosa è importante, seria. Lei crede alla regione Lombardia, dai, da me governata tu, da ben 20 anni, hanno fatto grandi cose, grandi appalti, la regione, la sanità è la migliore d'Italia, vi sfido a dire il contrario, vi Penso sfido a dire il contrario. Sì, no, ma certamente, però... Allora, la Santanché ha subito un'aggressione. Oh mamma, caro questo Parenzo, mi dispiace. Beh sì, ieri sera su tutti i dove siti. Dove è avvenuto questo? Alla dove? Stazione Termini. Ma per, era in una trasmissione o era per dalla i fatti suoi? Parte. Ah d'accordo, benissimo, grazie. Cioè scusa. La nuova moda di dalla vostra parte sì, è quella sì, di è mandare chi? I politici direttamente stupendo, a farsi aggredire stupendo, nelle stazioni, nei posti stupendo, un po' caldi. Ora io non dico che è tutto costruito, però se tu mandi la Santanché in mezzo a un gruppo dei negri si potrebbe mandare e di extracomunitari, che succede secondo te? Beh, qualcosa c'è uno che la riconosce e dice è scritto, diciamo. Senti, è scritto. Senti che è successo. Ci racconti un po' quello che vede, quello che ha sentito, ha parlato con questo ragazzo. Cazzaro. Qual è la basta situazione? Un attimo. Come? Aspetti, aspetti un attimo che succede qualcosa basta, invece alla stazione Termini. Cazzarola. Santanché. Santanché. Che succede? Questo tira le pietre. Ma che cosa? Santanché. Ma dov'è? Ma no, ma una roba pazzesca, ci hanno tirato le pietre, sto chiamando la polizia! Oh, senti ancora, scusami, ma... No, ma guardi, direttore! Ma che succede? Ma... Una roba pazzesca! Cioè andare con le telecamere pazzesca, a testimoniare quello che succede? Guardate che pietra! Ma è una roba pazzesca! No, guardi, veramente, con delle pietre, san pietrini grossi così... E qui stiamo alla stazione Termini di Roma, la principale stazione della capitale. Direttore pazzesco! Io mi rendo conto che ovviamente... Santanché! Cioè adesso cerchiamo di capire un po' qual è la situazione, insomma, perché davvero... No, ma guardi direttore, scusi, guardi che robe! Guarda che robe che ci hanno tirato. Voi eravate lì. E mostra il San Pietrino. Ragazzi, commenti a dopo però, perché ora uno può dire va bene, è una vergogna, per carità, gli extracomunitari che tirano i San Pietrini, eccetera, eccetera. Oppure può dire, amici miei, è come se io andassi però a Napoli. Se io vado a Napoli in piazza, che succede secondo te, caro David? Beh, se no, io vado certo, a Napoli in piazza a fare la trasmissione, è una vergogna, per carità. Ma se io andassi a Napoli in piazza, è evidente che voglio cercare non sì, la no, provocazione. Quello, no, ti può succedere. Chiaramente, dai, però, poverina, dai, solidarietà, sì, Daniela Santanché. Fare... Chi è il prossimo no, che va? Quello chi che pensi, chi quello va? Io penso che la prossima puntata potrebbe essere, ad esempio, Gasparri in un campo rom, ad esempio. Questo potrebbe essere una prossima puntata. Oppure che si potrebbe, cosa si potrebbe aspetta, fare? Non aspetta, so, sì, prego. Tu sei una pezza di merda, sei qua. La Zanzara. Alfano, vai via. Asmodeo, vai via. Voci, voci di immigrati alla stazione ancora. Centrale di Milano, inviati della trasmissione dalla vostra. Ma ragazzi, no, però ma, senti questa. Ma inviati, ma mettete solo una postazione fissa a questo però punto. Senti, ma io dico prego. Anche per risparmiare, in un campo, no, mettete fissa la postazione, no? Mettete lì. No, la ma cosa... senti, ti prego, questo nero, sì. Non so da dove viene, questo personaggio di colore, questo immigrato, questo cercatore di felicità, come li chiami tu? Bravo, sì, questo cercatore di felicità, sì. Tu li chiami così. Per me cercatore non sono cercatore di felicità. Per me sono persone che vengono in Italia perché probabilmente hanno bisogno, alcuni perché sono che scappano, altri c'è di tutto, c'è di tutto. Senti questo qua. Ti fanno andare a scuola? No! Adesso al campo ce l'hai, scuola non ce l'hai, niente non ce l'hai. Non avete niente. Lavoro non ce l'hai, niente non ce l'hai. E qua, ce l'hanno e qua il cosa lavoro? Fate tutto il giorno? Tutto il giorno, io sono qua perché non lo so, vai. E qua, ma lavorate, che lavorare cosa fate? Lavorare non ce l'hai, niente non ce l'hai, documenti ce l'hai, tutto vai di Germany. Non si è capito niente, poi senti questa. E voi che fate tutto il giorno qua? Giorno qua? Sì! Soldi ce l'hai io, vai a Germany! Soldi non ce l'hai io, sei di qua, poi, vendere! Cosa vendi? Vendere, che... io vendere erba! A vendi l'erba? Sì! A vendere l'erba! Io vendere erba, io vendere canna! Vendi le canne? Sì, perché soldi non ce l'hai, lavoro non ce l'hai, mangiare non ce l'hai! E chi te la vende l'erba? Da dove la prendi l'erba? Erba di italiano, non vengo qua, prendi. La vende agli italiani? Sì. Ma tu dove la prendi? Dove la prendi? Ma pensa, vai di Linate, vai di Bergamo. Da Bergamo, Bergamo, vai all'aeroporto. E il rapporto, Linate, Bergamo, Malpensa. Hai capito? Hai capito? Comunque la grande scoperta è che alla stazione centrale di Milano ci stanno quelli che ti vendono l'erba, questa è la sostanza, quelli negri che ti vendono l'erba, che vanno a prendere la marijuana, non so che cosa, a Bergamo, allineati a Malpensa, e le vendono agli italiani. Bah. Va bene, Paolo Milano, vai Paolo. Sì, ciao. Beh, prima cosa volevo dire che naturalmente, così tanto per iniziare, onorevole Pizzolante, con il massimo rispetto per le istituzioni, non mi dice un cazzo, diciamo, questo nome. Cioè non lo conosci, non mai sentito, assolutamente. Mai sentito nominare. Ma è ignoranza sua. Ma che ignoranza sua? Mi ricordo il nome di una gelateria e basta. No, Pizzolante, comunque, nome a me di uno di quelli, di un gommista, Pizzolante, oppure di una pizzicheria, certo, come si dice a Roma, un alimentari, Pizzolante. Però vabbè, il motivo per cui chiamavo, avevo una curiosità, vi volevo girare una provocazione, se ancora non è arrivata alle vostre orecchie. Dimmi. Cruciani Parenzo, c'è una radio vostra concorrente, ma non in una trasmissione vostra concorrente, in un altro orario. Il conduttore sostiene che non solo voi siete, vabbè, ma questo penso che ve l'hanno già detto in tanti, e non dite mai che non è vero, cioè che siete dei cazzari e dei cialtroni, diciamo, su questo penso che non avete mai non avuto. Non so a chi dire. Ti riferisci, lo puoi dire tranquillamente, non è mica un problema. Vabbè, cioè, per riservatezza non lo dico, comunque inizia con, Radio Capital adesso, diciamo, la radio. Però la cosa che mi interessa di più che è... trasmissione che trasmissione è, scusa, non ho capito, che trasmissione è? Una trasmissione del mattino dove il conduttore sostiene che lo puoi voi... dire, non è mica ma non è una un problema, ci siamo abituati, non è un problema. Ma non è questo il succo, cioè non è dalla fonte da cui proviene, è che la provocazione è, voi fate praticamente sempre bastian contrario l'uno dell'altro, il bianco e il nero, è una, sostanzialmente una finta, una commedia, perché in realtà non siete realmente così distanti l'uno dall'altro. Io non so chi è, se tu non mi dici chi è o chi non è, a parte che non me ne sto sbattendo e non interessa a nessuno quello che dicono di noi su un'altra radio, cioè, però basta che tu mi dici chi è o chi non è, poi andiamo a prendere le registrazioni, cioè così, ma così per ridere, perché non me ne frega nulla. Chi è? Su che radio è? Radio Capital? Su che radio? Radio Capital, sì. Sì, ma chi è? Cioè, ma Zucconi chi è? No, la trasmissione del mattino. Ma che ne so, chi è? Quello che fa le no... Lateral, come si chiama? Alle 9, bravo, sì. Sì, giusto, vabbè, giusto. Chi se ne frega? Ma chi se lo incula? Ma va bene. Vorrei sapere voi cosa... A proposito di cosa? Cioè, a proposito di cosa? Ma chi è Bottura? Ma chi se ne frega? Chi è Bottura questo qua? Ma gli facciamo più pubblicità nominandolo piuttosto che non nominandolo? Benissimo, è una cosa... Ma chi se ne frega? Io non so, adesso dovrei andare a controllare quello che mi dice. Me ne fotto totalmente di quello che dice Bottura. Me ne sbatto i coglioni. Anche se l'avesse detto, me ne sbatto i coglioni. Okay, ma chiaro, non devo rispondere a nulla, né tantomeno devo rispondere a te. Cesare da Milano. Cesare, vai. Pronto, ciao ragazzi. Sto ancora ridendo. Ho chiamato Radio 24 per parlare in diretta su Pizzolante. Sì. E la ragazza che prendeva il nome fa: E io faccio pizzolante. E fa, mi puoi fare lo spelling? E faccio pizzolante, dai. E lei fa pizzolante. Non ho capito nulla, Cesare, perché stai parlando col viva voce innanzitutto. Primo. No, non sto parlando col viva voce. Sì. Stavo dicendo che ho chiamato adesso al volo, in radio, da voi. E ho detto, di cosa vuoi parlare? E io, di pizzolante. E la ragazza, Pistorius? Ma ha ragione, non lo conosce nessuno. Ma non l'ho sentito bene. Lo conoscete dai, solo voi che siete fissati con la politica. Sono gente che non li conosce. Cioè, capito? È il siete nulla. È il nulla. Ma il nulla. Ma non si può dire così. Ma il nulla cosmico. Il nulla per cosmico. Gente ignorante come voi. Per gente sa niente come voi. Ignoranti patentati. Dai, dai, dai, cazzo! Dai, dai, dai, dai, dai, zucchero, non si molla un cazzo. Siamo tutti con te. Zucchero, la la la la. La zanzara. You look so good when you get out of bed. Vai tu, se volete parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701 Crucia, 7 anni nei paesi arabi e Medio Oriente, te l'assicuro, tante donne non vedono l'ora di avere le mestruazioni per avere la scusa, stare a casa con i genitori che vanno in moschea e possono stare sole. Ci avete capito un cazzo, ci avete capito un cazzo, sottovalutate il mondo arabo, ciao! Ma scusate, ma che cazzo di digiuno è il Ramadan? Mangiano 2 volte al giorno? Cambiano dalla giorno alla notte i pasti ed è digiuno? Ma va che chiaro, va! Cruciani, mai visto un pezzo di merda nella mia vita come te. Quindi io sono Lazar. Ti insulto in arabo. Rohtati. Allora, ieri è intervenuto in questa emissione, in questa emittente, in questa trasmissione, caro Parenzo, un musulmano del Bangladesh che si chiama Siddiq Nur Alam. Siddiq Nur Alam. Il quale, caro Parenzo, ci sei? Sei presente? Presentissimo. Allora, Siddiq Nur Alam, il quale sì, ha detto che non ci... L'ottimo Siddiq Nur. Ha detto che non ci si può masturbare. Lo ha descritto in questo modo. Ma non è che non ragazzi, si può. Però, se tu mi vuoi far passare come normale, come dicevi una volta tu, l'idea che una religione dica che non ci si può masturbare, capito, amico mio, non mi arrenderò mai. Trattasi di follie. Se una religione mi deve dire che non mi devo masturbare, amici miei, perché, non ci poi, sto. Amici perché, miei, io non ci sto. Ma nessuno te lo chiede. Non ci sto a considerare normale tutto questo. Non ci sto. Siddiq Nur Alam. E la sega, se uno si vuole ma masturbare? Dici, ma non si no, può. No, solo a bacio. Masturbazione non si può fare. Non si può no, fare. No, anche masturbazione no. Ma, allora fuori regola. Ma quello nemmeno in altre situazioni, quando non c'è il Ramadan, pure non si può fare masturbazione, o no? No, non può fare, cioè, giustamente non può fare mai. Poi racconta una barzelletta sulla masturbazione. Devo dire molto bella la barzelletta. Il signor Siddiq Nur Alam. Mi fa impazzire il nome. Ma ecco, ma perché lo devi ripetere così? Cioè, Giuseppe, non lo so. Cruciani, capito? Ma non... Comunque stiamo preparando Pizzolante, per vedere se qualcuno lo conosce. Il signor Pizzolante del nuovo di Alternativa Popolare. Non lo conosce nessuno in Italia. Eppure i politici, eppure i giornalisti se ne interessano. Il signor Pizzolante. Vuoi sentire una barzelletta? Dimmi. Un ragazzo è andato per, come si chiama, leggere sua mano ai astrologisti, come si dice? Che leggono mani, come si dice? Sì. Vabbè, cartomanti, gli astroi maghi. Ma vabbè, dai maghi, no? Sì. È andato per dire, per favore, leggi mia mano. Il mago dice, no, io devo vedere tuo pisello. Dice, ma perché? Dice, no, tu hai fatto troppo mastrazione che adesso non c'è nessuno riga in mano, tutto è entrato lì. Siddiq mi scrive il signor Mario Giordano. Che dice il signor Mario Giordano? Mi scrive. Cosa scrive signor Mario? Siddiq, protagonista dalla vostra parte, grandi battaglie. Sangue su! Il prossimo sarà islamici. Allora, a proposito di quello che è successo dalla vostra parte, islamici. Aspetta, Librandi, anche pronunciato, c'è un libro, capisco, però l'audio deve essere questo, sì, certo, del libro, Librandi sanguisughe. Fai l'audio in allegato, così ti dà quelle royalties, delle royalties. Sì, certo, l'ottimo. Librandi contro Santanchè, perché vabbè, secondo ma cosa c'è di nuovo, no, però? Non c'è, scusa, niente di nuovo, però dire... c'è una cosa importante. Secondo Librandi, la Santanchè, che è andata alla stazione Termini, è stata aggredita, un San Pietrino, eccetera, sì. Avete sentito prima la voce anche rotta dall'emozione, rotta anche, no, dalla paura. Direttore, con Belpietro che diceva, Santanchè, sì, che succede? Beh, beh, certo, una grande drammaturgia, ecco, sì. Com'è, ma che, la, com'è che diceva? Ma è una roba pazzesca! Aspetta, senti io. Ma è una roba pazzesca! Vabbè, l'hanno aggredita, stata... poverina. Su questo no, rimette, non rimettete, ma dovrei, rimettete, ma dovrei, dovrei. Direttore, pazzesco! Vabbè, non c'è da ridere, no, in questo, però. Scusa. Secondo Librandi è tutto inventato. Signor Librandi. No, vabbè, questo non è vero. Senti, che è inventato. Lui è inventato. Perché non è credibile? Ma io farò anche ridere. Io invece ti giuro, mi viene da piangere. Non c'è nessun problema. Cioè, lei non è mai capitato. Nessun reatto, neanche di notte. Cioè, lei non crede che abbiano lanciato le pietre? La stazione centrale a dare da mangiare quelli che muoiono di fame. Librandi, lei non crede che siano state lanciate le pietre? E non andare lì a provocarli, ma capito? Cosa perché stai quella dicendo? Signora lì fa ridere, no, vuole, guarda, vuole andare lì qua a provocare. La Santanchè è andata a provocare, non so chi, alla stazione. Però ragazzi, io non voglio dire, perché io, qualcuno mi ha detto, poi tu sei quello che dice che una che va con la minigonna non provoca. Non è la stessa cosa. Sto dicendo semplicemente una roba. Se io vado a fare la zanzara a Piazza Plebiscito a Napoli, qualcosa accade. Se la Santanchè va, vi faccio un esempio, se la Santanchè, quello di Napoli era un esempio, se la Santanchè va alla stazione Termini, dove magari vengono allertati dei signori neri che magari hanno visto qualche altra trasmissione, eccetera, poi certo sono dei criminali se lanciano il San Pietrino, mi pare normale, però è evidente che un po' si cerca, che un po' si cerca lo scontro, o no, Parenzo? Dai, su, un po', no, sì. Vabbè, ma sì. Non ma possiamo metterci, non possiamo bendarci gli occhi di fronte a questa cosa. Cosa va a fare la Santanchè? Per va a spiegare sì, il degrado. Che... Ho capito, sì, ma se vai con le telecamere lì, sì, la Santanchè, c'è dubbio, poi c'è il matto che gli tira San Pietrino, sì, che è un coglione, un criminale, va arrestato. Però non mi dite che non, è, che non si cerca un po' lo scontro, perché quello è. Dai, su. Ancora Librandi contro Santanchè, vai. Librandi, io a dirti che tu vai sei a casa un cretino, tua, sei ridicola. Io vai a casa, Librandi, che è un cretino. Boni, non possiamo nessuno. La cura non dovrebbe i poliziotti, i carabinieri. Non succede niente in quella stazione. Non succede lì niente. Come non succede niente da nessuna parte. Non su- questo è esagerato. Non succede niente da nessuna parte. Nelle stazioni non succede niente. Librandi, tu sei un ricco signore di Saronno che in stazione ci vai con l'autista, no, o con taxi l'autista? In orari normali. Se sei una che lavora dalla mattina alla sera e passi per Termini e vedi la merda per terra, ogni tanto qualche donna viene anche aggredita. Non dire stronzate, Librandi. Succede, certo succede, che succede. Certo che succede, questo è e ovvio, allora non dai, dire che sono luoghi così. Le ma stazioni no, sono sbaglia, nuovi, luoghi illibati dove non succede nulla, signor Librandi. Non succede. Però, per lui mio, in Italia, per Librandi in Italia non succede ma mai no, niente. Ma non è vero, non c'è ma in tutte le stazioni del mondo c'è qualche sbandato. Sì, dai, su, in qualunque di stazione di Vienna è famosa per essere una stazione dove c'erano i tossici sotto la perdita. Ma verità, sì, ma ovunque, qualunque stazione del mondo, dai, c'è qualche problema, su. Direttore pazzesco! Ma perché ridi? Ma qui mi spiace, beh, Fabrizio da Genova, dai, Fabrizio. Che ti devo dire? Che dice, io che dice il signor Giordano? No, adesso non commenta più della Santanchè. Ma ci commentare, mandi qualche messaggio sulla Santanchè? No, è pazzesco, direttore, è pazzesco. Ma no, cosa Fabrizio, dai. Guarda, io non sapevo della cosa della Santanchè, l'ho preso stasera allora, ascoltando la radio. Godi. E sono felice. No, Fabrizio, come? Perché? No, questo non si dice per nessuno. No, scusa, vi pazienza. Fabrizio, ma lascialo godere, se vuole godere lascialo godere. È una deficiente, pare in civile, glielo dice uno. È una deficiente totale, non ma posso mi pare in civile politici, che se una persona è stata aggredita, sia essa bionda, rossa, blu, di destra, di sinistra, se vuole di centro, godere, una sia, se uno c'è, gode, se ma uno pare, gode, ma non è un godere, atteggiamento no, da maggioranza silenziosa. Ma se non lo farei, io non lo farei perché sono una persona mite, però se qualcuno al posto mio l'ha fatto sono felice. No, ma no, non si dice questo, lei questo non però, è della maggioranza silenziosa, perché noi siamo persone per bene, civili. Ma chi l'ha detto che è della maggioranza silenziosa? Siamo irenici e non violenti, peraltro. Ma perché godi? Perché godi? Non si parla in questo modo, peraltro. È una deficiente. Noi contrastiamo le idee, non le persone. Perché è una deficiente secondo te? Spiegami. Perché dice un sacco di cazzate? Adesso come vabbè, ma lascia perdere, cioè, non è che se uno noi combattiamo sul piano politico. Noi combattiamo sul piano politico. Ma che ne sai che questa è dalla parte tua? Ma no, da parte mia, maggioranza silenziosa. Ma chi te l'ha detto? Noi argomentiamo e usiamo la parola e le idee. Non ho capito, scusa. L'hai detto tu che è una provocatrice. No, ma io ho detto, è chiaro che andare lì e magari allertare qualche gruppo di barboni o di neri o di extracomunitari per dire c'è la Santanchè lì, c'è quello che ha tirato il San Pietrino è un coglione, va arrestato, mi pare normale. Però bene. Se tu porti la Santanchè in mezzo alla moschea, davanti a un covo di islamici, cornuti, come diceva una volta Borghezio, no, lo diceva sì, Borghezio, non io. Risentire a questo punto. Sì, allora è chiaro che qualcosa... Lega per tempo, aveva individuato. Via le Iene, sì, un covo, guarda, un covo di islamici cornuti. Mi fai bastardi, venire in mente diciamo. Il film di Giannini con la Melato, cioè? quella vacanza dove lui a un certo punto si vendica di questa classe sociale sì. elevata che lo prende per il culo, lo maltratta, eccetera. Sì, beh, sì. Insomma, ci siamo rotti i coglioni di sentire questi VIP cosiddetti. Che fanno anche politica e che vogliono insegnarci a vivere. Ah, però amica mia, questa non vuole insegnare a vivere a nessuno. È andato in un posto e gli hanno tirato un San Pietrino. Cioè, questo è un fatto. E allora sono contento. Tu godi per questo, godi. Io godo per questo. Godo cioè, se la pigliavano in testa e spaccavano la testa, godevi ancora di più. Ma no. Però dato mia, questa, vabbè, ho capito, cazzo. Vuoi godere a metà, godi allora, a metà. Allora. Godo a metà, questa non è morta. No, noi non usiamo questa metodologia. No, vabbè. Dai, su, non è mica brutta. Grave, dai, non è mica grave. Ciao. La Lega aveva indicato per tempo in Viale Jenner un covo di cornuti islamici bastardi che bisognava buttare fuori a calci nel culo. Solo la Lega. Per il tuo cervello scegli il meglio, la Zanzara. La Zanzara. Fidati di un miserabile, fidati di un miserabile. Ma è una roba pazzesca! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento la Zanzara. Alfano, quella è pornografia, quella è essere miserabili, quella è pedofilia. Alfano è la pedofilia al potere, è il massimo dell'orrore. Direttore pazzesco! Ragazzi, io sono impazzito per questo. Mi scrive Mario Giordano. Qui bisogna dare conto di tutto, ovviamente, in diretta live. Direttore Giordano scrive, direttore del TG4, scrive giustamente: ma il problema per voi è la Santanchè o la stazione che è diventata terra di nessuno? Bello, anche bel titolo questo qua, terra di nessuno. Sì, stupendo, prossimo terra libro di Mario Giordano. Terra di sottotitolo, maledetti! No, oppure invasione. Bravo, molto bene. No, caro amico Giordano, è evidente che il problema sì, non è la Santanchè, ma è il degrado della stazione Termini. Certo. Appare di tutta evidenza, ma lì la Santanchè ce l'avete mandata voi, però. Non è che ce l'abbiamo comunque, mandata la prossima noi. Puntata cos'è? Gasparri dove? Dove lo mandiamo, Gasparri, ad esempio? Comunque, ragazzi, adesso parliamo un po' di quello che succede a casa di un signore che si chiama Mandarà. Caro Mandarà, adesso ti faccio venire il sangue al cervello con Mandarà. Bisogna interessarsi. No, ti faccio venire il sangue al cervello. Allora, il signor Mandarà è un signor nessuno, ma lo dico con grande, come dire, con grande affetto. L'unica cosa per cui era conosciuto è perché stava sul palco di Grillo con la telecamera durante la campagna elettorale del 2013, forse qualche tempo dopo. Poi a un certo punto si è reso indipendente dal mondo grillino, più o meno. Si è messo in proprio con alterne fortune, diciamo così, giusto per edulcorare la pillola. È un signore che usi un eufemismo. Sì, assolutamente. È un signore che è fissato con i complotti. Sì, esatto. Malato di complotti, la massoneria, ovunque, il Bilderberg, e che più ne ha più ne metta. Ora, questo signore ogni tanto ospita altri personaggi, tra cui un signore. Tra cui un signore che si chiama Marciano. Rosario Marciano, ecco, da me ribattezzato con orgoglio Merdanò. E per questo siamo stati querelati. Ovviamente la cosa verrà archiviata dai signori magistrati, perché l'abbiamo chiamato Merdanò. Cioè, vi rendete conto della follia? Il quale signor Merdanò ne dice di tutti i colori su chiunque, dice che tutti gli attentati sono falsi. Addirittura ha detto: ti ricordi quell'italiana che è morta al Bataclan? Ha detto che era tutto finto, che non era vero. I genitori sono ovviamente incazzati con il signor Marciano. Era tutto falso, ha detto. Anche lei non esisteva praticamente, quella morta, l'italiana morta. Ma lasciamo perdere i dettagli che non sono interessanti. Si sono riuniti insieme l'altro giorno, anzi ieri o stamattina, non mi ricordo, stamattina. Signor manderà il signor Marciano. Senti un po' che cosa dice il signor Marciano. E questi dicono nefandezze di ogni genere, nessuno gli fa un tubo, perché sono servi del sistema, sono pagati, sono dei mercenari, e per questo vengono protetti anche e soprattutto dalla magistratura. Noi siamo protetti dalla magistratura. Non mi pare, visto mi che hanno abbiamo chiamato Merdanò. Siccome mi hanno insultato e chiamato Merdanò più volte, e non solo l'altro ieri, io chiaramente ho lasciato perdere, perché lo so che la magistratura cosa fa, se non può archiviare perché è troppo palese la cosa, la fa andare in prescrizione, no? E quindi insabbiano, come dicevi tu, e anche questa verrà insabbiata. Ma verrà insabbiata perché non c'è niente. Esatto. Perché nemmeno leggono, No, vedono leggono, Marciano, e buttano, vanno, sai quelle cose che tritano? Subito. Sì, le cose che tritano i documenti. Tritano tutto. Marciano, tritano tutto. Arrenditi, arrenditi. Poi dice a un certo punto: siamo servi di regime, mercenari che fanno schifo. Moriremo. La responsabilità di questo, di questa decadenza e di questo incremento della dittatura in Italia è dei giornalisti come Cruciani e Parenzo, che sono tutti inginocchiati, e giustamente, come diceva Francesca, sono dei servi di regime, sono dei mercenari, fanno pena, fanno schifo, hanno voglia di insultare, perché questi si ammaleranno come ci ammaleremo noi, perché respirano la merda che respiriamo noi. La morte tocca a tutti, ricordatevelo. Acci tua, Merdanò, maledetto. Devi sapere che durante questa diretta dedicata a noi, cioè tu devi capire che questi qua dovrebbero ringraziarci, dovrebbero accendere un cielo, perché li nominiamo sul web. Il solo fatto che li nominiamo dovrebbero accendere, avere le nostre fotografie, con i ceri. Noi siamo dei criminali, lo sai. Siamo noi i responsabili di questa roba. Cioè, i veri criminali siamo noi. Allora, è intervenuta una signora super vegana che si chiama Francesca Romana. No, ma senti, che ha detto: sono servi anche, oltre a insultarci, eccetera, chi se ne frega, però tratteremo la, insomma, questa signora qua, poi ce ne occuperemo di questa signora. Dice: sono servi anche quelli che fanno la pubblicità su Teleton per la sperimentazione animale. Pure. Si chiama Francesca Romana. Salvo, sono servi anche i personaggi televisivi, ad esempio, che danno la faccia per Teleton, per manifestazioni inutili, che non servono niente, che fanno sperimentazione animale, che non hanno mai portato un risultato, e fa la pubblicità. Adesso c'era un comico di Zelig che fa una pubblicità per una banca, cioè sono comunque tutti servi. Assolutamente. Indipendentemente che siano giornalisti, giornalai o giornalettisti. Guarda che per questi ci vorrebbe la cartomante Pier La Sultana. Pure, cioè, per tutti questi qua. No, per tutti questi ci vorrebbe una risposta. Una risposta da Pier La Sultana. Corri verso la cartomante vera reale, una grandiosa squirt. Se una cartomante non è squirt, non vale niente, adeguati ai tempi. Bastonali, colpi di verga duri. ecco, io li manderei tutti dalla cartomante Squirt, questi qua. Ti posso chiedere perché qui troviamo tutti questi personaggi qui? Pier posso la Sultana. Però io andrei a Cesare da Roma. Cesare da Roma, vai. Pier la Sultana. Cesare, vai. Cruciani, buonasera. Dimmi. Cesarone. Io voglio semplicemente esprimere un concetto chiaro. Qual Sentiamo. È il concetto Bene. Chiaro? Speriamo secondo bene. Me, sì. secondo me, sì. un essere umano che qui la vedo male, dimmi. Non rispetta le leggi, sì. Vabbè. Non rispetta il minimo criterio di educazione, civiltà e sì. norme igienico-sanitarie. Sì. Di chi sta parlando? Di Previ? Un non essere so. Umano che non ha alcun rispetto e non fornisce alcun insegnamento per i propri figli, sì. educandoli non alla cultura del lavoro, ma alla cultura del furto, I Rom, stai alla parlando cultura dei Rom. Del non rispetto delle regole, I questo Rom. Non è un essere umano, questa è una bestia. Allora? Rom uguale bestia. Eccolo qua. E dunque? Immaginavo. Queste persone, se non vogliono lavorare, se non vogliono fare un cazzo, io non dico come gli altri. Così? Aspettiamo. Io non dico come gli altri che chiamano, che dicono ammazzateli, bruciateli. No. Adesso non è che tutti che chiamano, beh, tutti quelli che chiamano. Sì, molti. Ci stanno molte persone che comunque, questo per me è un odio, cioè voler dire incitare alla violenza. Tu l'hai chiamati bestie, però. L'hai chiamati bestie? No, sì, perché sono bestie. E dunque? Quindi io li metterei nei recinti. Come i maiali. Questo è interessante, questo è interessante. Scusa, non ho capito. Tu hai detto io non sono come quelli. Tu hai detto non sono come quelli che dicono che devono essere ammazzati. Certo, però certo, siccome maestro, hai certo. fatto tutto un ragionamento come sì. maestro, l'ho capito, maestro. No, perché maestro. Per me lei è una fonte di ispirazione, quindi maestro. È maestro. Vabbè, comunque, come maestro. Siccome sono delle bestie, vanno nutriti sì. come i maiali dentro i recinti? Sì, sì. Come sì? Ma cos'è che ammazzandoli? Non ho capito, cioè, non ammazzandoli, sì, ma dove i campi Rom? Lei è mai stato in un campo Rom? Sì, campo Rom. Siamo stati tutti nei campi Rom. Io ci sono stato perché ho assistito anche uno di questi personaggi. Dunque, non sono, diciamo, non si possono salvare questi qua, ma assolutamente no. Cioè, io ho visto bambini giocare sopra cumuli di sporcizia. Ma certo, ma infatti va lì. A questo servono i mediatori culturali, a questo serve la politica, per evitare che questi diventino delle enclave di illegalità. Sì, ma la vergogna vogliono. Vera, scusa Cesare, la vergogna Nessuno vera. Nessuno vuole che David, vivano in quelle condizioni. La vera condizioni. Vergogna è che il sindaco di Roma Raggi ha deciso di dare dei quattrini per risolvere la questione dei Beh, campi certo. Rom. Vanno chiusi, 800 vanno superati, euro certo. per chi vuole cambiare, per chi sì. vuole cambiare. Ed è giusto un incentivo no, a cambiare no, la vita, no, certo. No, no, ma nessun soldo pubblico, euro. Nessun no, soldo pubblico. Ma ci vuole un grande Rom, piano di edilizia no, popolare. I Rom, se sono italici, italiani, devono cercarsi la casa come tutti noi. Ma infatti lo fanno. Cercarsi una casa bussando alle agenzie immobiliari oppure facendo i numeri di telefono sugli annunci. Che si trovano sugli annunci e basta, non favoritismi, liste, contributi, basta soldi, basta, siete italiani, cercatevi la casa come tutti gli ma altri. Così Punto sarà, così no, è. Non è così. Finiscono come fermi tutti gli altri tutti, nelle fermi liste tutti, per accedere tutti. Alle case popolari. Fermi ma non fermi. La Zanzara. Allora, dopo le frasi pronunciate ieri da Severino Antinori in tribunale, in cui ha detto che una donna spagnola praticamente lo ha stuprato, la famosa donna spagnola che accusa Antinori di avere rubato gli ovuli. Il processo in corso a Milano. Però gli posso dirti solo una cosa? Gli capita di adesso lo chiamo, adesso lo chiamo, basta. Speriamo che lo troviamo, perché è già due o tre volte che proviamo non squilla e non risponde. Pronto? Sono Parenzo. Come sta? Bene lei? Sono Parenzo? Ho capito. Che succede? No, volevo capire da te che è successo con sta vicenda che hai raccontato. È successo che innanzitutto il Tribunale di Milano mi ha autorizzato. No, ma lascia stare questa vicenda di questa qui che voleva fare l'amore con te, per forza. Scusa, fammi rispondere prima. No, ma fammi capire una cosa prima. Allora, ti sto dicendo, ascoltami. Poi l'Ordine di Roma oggi mi ha riabilitato a fare la professione, quindi la prima notizia che dico a tutte le coppie, sì. io riopero, faccio la professione. Bene. Da domani posso ricevere chiunque, anche gratuitamente, per avere un figlio quando non è possibile. Quindi, questo è importante, è importante. È importante perché un anno fa mi hanno demolito. Sì, certo. Cioè, se volete fare un figlio, se volete fare un figlio anche a una certa età, Antinori riapre i battenti. Questa è la realtà. Assolutamente, non solo, ma faremo qualcosa di più eclatante per far sì che la fecondazione in Italia si possa fare come dice la Costituzione, come vabbè, la norma dice. La premiata fabbrica, la premiata fabbrica Antinori riprende la sua attività. Non è una fabbrica, no, ma è beh, importante questo qua, è importante. No, sì. Voglio dire, è importante perché molta gente aspetta questa notizia, e... il tribunale va autorizzato, l'ordine dei medici di Roma oggi mi ha autorizzato, mi ha riammesso per cominciare domani. Quindi questa è la cosa fondamentale. Ecco. Fondamentale dire a tutte. Venite perché aiutiamo chiunque. Vabbè, adesso. Beh, venite. Ma insomma, chiunque che significa? Quando tu dici chiunque, Severi, che significa? Che anche i bisognosi li facciamo gratis. Comunque, l'altra questione incredibile è questa qui, che tu saresti stato vittima di una che voleva far l'amore con te. Ma questa è incredibile. Bellissima, sta storia è bellissima. Ma bellissima, ma che vuol dire? Dai. Severi, racconta tutto nei dettagli, come è avvenuto? Scusa, Lucia, dato che tu sei, hai anche tu molto sex appeal. Sì, certo, non c'è dubbio. Una donna che ti vuole, perché ti vuole e può capitare di correre in questo tipo di... Sì, ma lei cosa ha fatto per averti? Addirittura ti ha aggredito? Sì, mi ha proprio strappato i calzoni e mi ha... Sì, vabbè. Mi ha fatto qualcosa... Che ti ha fatto? Un pompino? Che ti ha fatto? Evidentemente. Cioè, ma scusa, come ma si scusa, fa avere un raptus, una passione per il Severino Antinori? Adesso, per carità, non è un bellissimo ma uomo, diciamocelo chiaramente. Dopo ho abbandonato la... Cos'hai abbandonato? Abbandonato, non ho lasciato che diventasse una preda, però mi ha continuato a tarbinare anche a Milano. Sì, ma alla fine perché tu c'è stavi o non c'è stavi? Boh. Ah, no, non ci stavo, no, io. Come? Normalmente come Cruciano ho un paladino molto fine, poi non faccio queste cose così. Ma come non fai? Cioè, tu hai detto che sostanzialmente questa qua ti ha stuprato, praticamente. Certo. Ma diciamo... Non diciamo questo, ma lì di lì. Siamo lì per lì, insomma. Ma siamo che lì. Vuol dire? Ma che dite, cioè, allora, tutte e due? Cioè, come è iniziata la cosa, Antinori? Ripercorriamo quello che hai detto, allora, in tribunale, che è importante. Mi trovavo in un bar, una discoteca. Sì, in Spagna. In un bordello stavi, in un bordello. No. Dopodiché io ero su al bar, mi hanno invitato in una stanza, e mentre mi sono recato in questa stanza, questa signorina, sì, era già succinta, spogliata, sì, e si è dedicata a me in modo voluttuoso. Cioè, ma che vuol dire adesso? Al di là delle parole così, come? Che significa? Ti è saltato addosso? Che ha fatto? Mi è saltato addosso, mi ha dato giù i calzoni e io ho cercato di ricompormi. Sì, e poi è successa un'altra cosa. Ma è una storia inverosimile. Alla fine te l'ha fatto o no? Questo che, cioè, tu ci sei stato là in quel momento, in quel bar? Ma io in quel momento ho cercato di ritirarmi con tutti i limiti per evitare i traumi. E traumi dentari, ovviamente. E perché, scusa, che c'entra? Che non era capace? Perché quando uno, caro, ti abbrancano in quelle parti lì, certo, come fai? Come è una scena terribile, è una scena agghiacciante. Ti poteva anche mordere, capito? E invece tu a quel punto sei rimasto lì. Punto dopo, scusa, cioè, alla fine è arrivata fino alla fine questa qua. Ma scusa, non potevo mica farmi addentare, no? Ah, per cui alla fine ho dovuto sottostare, capito? E dopo è successo un'altra volta, ho dovuto sottostare. No, dopo io sono andato via, non l'ho più cercata e mi ha stampinato dopo 3 giorni, dopo un mese a Milano, dopo 2 mesi, è tutto quella storia. Ma perché uno dovrebbe credere a questa roba? E ti voleva, scusa, rubare i Rolex? Ti voleva rubare? E poi oltre questo, essendo, diciamo, non voglio parlare male degli araba, di indole araba, araba. Sì, araba. Rubava tutto, orologio. Ma cosa vuol dire? Ma io non ho capito. Ma perché uno dovrebbe credere a questa storia? Come ha fatto a tampinarti? Chi è che lo dice che non crede? Parenzo. No, dico, perché uno dovrebbe credere a sta cosa? Ma perché abbiamo i dati le controfirme di quello che è successo. Ma come, le controfirme di che? Dove è successo, tutto quanto, avevo tutte le prove, quindi è inoppugnabile. Chi sta facendo, scusami, la raccolta delle prove, per capire chi è l'avvocato che si sta un attimo... Sono state già tutte raccolte. Sì, ma chi è l'avvocato Taormina? Ecco, Taormina. Benissimo. L'avvocato Pietro Cara è l'avvocato... molto importante, quindi, si chiama Gabriele Vitiello. Quindi sì, Taormina sta già raccogliendo le prove. Io voglio dire una cosa, però Antino, io voglio dire una cosa. Adesso, perché dopo tanto tempo hai tirato fuori questa storia, che questa qua... Ma no, perché l'hai definita una puttana una volta, una puttana l'hai definita. Il movente veniva da questo. Cioè da che cosa? Da questa, diciamo, smodata violenza o desiderio sessuale, e altro movente è quello di cercare di... togliermi dei soldi addosso. Ma scusa, perché questa qua l'hai assunta come infermiera alla fine? Mai assunta, questo è tutto falso, non c'è niente di questo. Cioè non è mai stata un'infermiera questa qua? Assolutamente mai stata infermiera di niente. Cioè l'hai conosciuta sostanzialmente in un club di... Sì, però io dopo un mese, due, se l'avevo dimenticata e mi ha tampinato a Milano, sono ritrovato fuori dall'albergo. Cioè una specie di stalker. Di più di uno stalker. Ti ha costretto ad avere un rapporto sessuale però orale. Orale, che tu però a un certo punto non potevi rifiutare, perché altrimenti ti strappava tutto. Per fortuna che la saliva è spermicida ed è una questione molto forte contro i batteri e i virus. Ma cosa dici? E quindi sono contento perché... In che senso? Quando uno fa un rapporto orale, sì, con una donna e non sa che possa avere una malattia, io per fortuna non ho avuto niente di questo, ma come voi sapete che la saliva blocca abbastanza questo tipo. Dato che la saliva blocca sia l'epatite, più tutto l'AIDS, e altre cose, quindi... Ma tu ti sei controllato dopo, non è che ti sei fatto un taglietto, no? Mi sono controllato, un anno e mi sono super controllato. Hai fatto su i test, AIDS, sono perfetto. Sì, comunque la storia è incredibile, ragazzi, stiamo parlando di una cosa incredibile. Severino Antinori ha conosciuto una signorina in un bordello, diciamolo, in Spagna. Beh, bordello, io non lo sapevo che era un bordello. Ma come non lo sapevi? Ma come non posso lo sapere? In Spagna sono tutti bordelli. Qua. Vabbè, comunque in un locale in Spagna... Ma che tutti? Ma come mai a me non chi sono di Spagna? Tante volte non mi è mai capitato in un locale in Spagna, questa qua gli fa praticamente un pompino dentro il bagno. No, ma è una storia incredibile. Dopodiché, se attenzione, uno va in un bordello per forza succede. No, attenzione, dopodiché questa signorina qua lo perseguita. Per tre mesi. Per tre mesi. Tenta un altro assalto sessuale, giusto? Anche a Milano. Ma scusa, che storia è? A sua madre a sedersi al tavolo e non l'abbiamo potuto mandare. E che ti ha fatto? Anche là ti ha minacciato sessualmente? Guarda, l'unica sfortuna è che non ha trovato cruciale, non avrei portato. Ma non dire cazzate, va bene, dai. Ma tu come la definisci quasi questa qua? Una ninfomane? Com'è questa qua? È una ninfomane, certamente, con particolari tendenze delinquenziali, diciamo così. Una ninfomane con tendenze delinquenziali, addirittura. Mi piace. Ma di mestiere che fa? Che fa di mestiere questa qua? Questo lo vorrei sapere. La puta, dici, la puta? Fucking women. Ma adesso Severini, c'è il grande ritorno di Severino contro, che ne so, contro la Lorenzin, per esempio, contro il Vaticano. Diciamo qualcosa contro il Vaticano. No, parliamo adesso. Io ieri non avevo seguito, che ho detto due anni fa, nel luglio del 2014, dopo la sentenza della Corte che riammetteva l'eterologa, sì? la Lorenzin ha fatto una velina all'inquisitore dicendo di farmi chiudere. Ah, e allora? Che venga cancellata con questa nuova norma elettorale, così non esiste più. Cioè, la sciacquina la segretaria. Allora, deve tornare a fare la sciacquina, addirittura deve tornare a fare. Ma no, la segretaria di buon aiuto non ha mai fatto. Ma io voglio capire una cosa, un'ultima cosa, ma alla fine sta spagnola e Rolex ha rubato o no? Uno me l'ha rubato, un acquamarine, l'altro no, ha tentato, però io l'ho ripreso. Ma come ha fatto a rubare? Cioè, a rincorrerti dentro l'albergo? Questo Taormina è un genio, si è inventato tutta una cosa incredibile. Diciamo, inventato, no, non mi sono inventato, è vero. Non è che ma una che non conosci, ti rincorre a Milano e ti ruba Rolex. Ma dai, No, io ero nella venuto nella camera direttamente. Ma come ha fatto a entrare in camera? Hai aperto, scusa, perché te la volevi farci l'amore, scusa, aperto la porta. Ma non è così, questa no. È assolutamente una cosa assurda quello che mi è capitato. Ma a 71 anni ancora si riesce a scopare? Mi hai incontrato, come sto? Bene. Ma benissimo, a 71 anni. Sì, ti ho visto in forma, grande forma. A 71 anni... Io ho una genetica familiare di 100. Tu però ti riempi di Viagra, secondo me. No, ma guarda, ma stai scherzando. Sì, però tu per trombare hai bisogno di qualche cosina, no, dai. No, questo dipende dal testosterone, che per esempio Cruciani mi risulta che ha molto testosterone. Pure il tuo è altissimo. Volte. Me lo hanno detto a me. Ma che t'hanno detto? Ma non è vero. È una cosa incredibile. Ma non è vero. Cruciani è uno pericolosissimo. Sì, ma quanto è dotato, Antinori? Quanto è dotato? Dotato in che senso? Sì, dal punto di vista, il pisello, quanto ce l'hai? Lo spessore o la lunghezza, vuoi sapere? Tutte e due. E mia anche mia. Cioè, è abbastanza nella normativa più regolare. Quello che, cioè, voi sapete com'è avviene la migliore eiaculazione della donna? Perché la donna eiacula di più? No, diccelo. Non è uno tanto lungo, di 26-28 centimetri fa male, perché fa male, sì, tocca, certo, i fornici dell'utero e fa male. Sì. Uno che ha 16-18, sì, con uno spessore, con lo spessore molto importante, sì, certo, e con un rapporto mirante a stimolare le parti più eretogene della donna, sì, e quello dà la maggior risultato. Lo spessore, quello, sì, quello, sì, sono, di quello sono dotato anch'io. Molto dotato. Quanto? Molto quanto dotato, di spessore? Con Cruciano non l'ho visto, ma quello. Appunto, non lo sai, per cui che ne vuoi saperlo. Quanto hai di spessore? Sono più che molto di più che una banana, che ti posso dire. No, cosa scusa, dice? Professore, ma tu sai cos'è lo squirting? Io penso di saperlo, tu che dici? Farti squirtare addosso, ti piace? Assolutamente no, io sono, da questo punto di vista, sono molto schizzignoso. Beh, questo è importante. Cioè, sei no, ma è normale, a me piace, per esempio, ma non è che sono anormale. Cruciani? A me piace, moltissimo, a me piace. Cruciani, ognuno, de gustibus non est disputante. Ciao, Severi, ciao. Ci vediamo, buona trasmissione, comunque dite a tutti che io ricomincio, va bene? Sì, ma quello sicuro, ciao. Ricomincio a lavorare da domani, mi chiamassero tutti, ok? Vabbè, ciao. Ma tutti chi? Ciao, ma perché? Ciao. La Zanzara. Porca puttana, Cruciani, se ti vedo per strada con uno schiaffo ti pettino. Aiuto ragazzi, sono prigioniero. David sta andando a trans. David sta andando a trans. Pagato dal Mossad. Pagato dal Mossad. Ragazzi, sono ossessionato da Gloria da Venezia. Invitatela in trasmissione tutte le sere. Fatele raccontare quello che volete, ma fatela parlare, perché ormai mi ha trapanato il cervello. Sono intossicato da Gloria da Venezia. Ho la scimmia di Gloria da Venezia. Fate qualcosa, ma fatela risentire. Come Macron! Ma è una roba pazzesca! Direttore pazzesco! Allora, è ricomparsa la nostra amica Iside, la prostituta che lavora in un bordello. Mamma mia, ma perché è sempre prostituta? È importante. In questa situazione c'è un tasso di prostitute che è superiore anche a quello del paese. Cioè, se uno dovesse ascoltare solo questa trasmissione, la percezione, un po' come la percezione dell'immigrazione, dice c'è un'invasione, cazzo ti credo, ogni giorno dalla vostra parte parla di immigrati. Quindi uno dice, mamma mia, siamo veramente invasi. In realtà la percentuale è bassissima. Lo stesso, analogamente, se uno dovesse ascoltare solo... Bassissima, no, minima, minima. C'è europea. Un numero di arrivi pazzesco in Italia. Numero di arrivi? Beh, certo. Ma pazzesco, cioè, solamente una piccola percentuale sono rifugiati politici. Il resto, tutta gente che viene non dovrebbe stare qui. In realtà sono pochissimi. Ma che vuol dire che sono pochissimi? Sono arrivati 20-30 mila all'inizio dell'anno. Ma che dici? Pochissimi rispetto ai migliori italiani. Ma perché uno dovrebbe accogliere 20-30 mila persone? Spiegami perché. Pochissime persone, pochissime. Molti poi se ne vanno perché sfanculo questo paese. Giustamente lo ritengono anche loro inadatto per loro, sto paese. Quindi se ne vanno. Vabbè, allora... in posti più civili. Dopodiché, se uno dovesse invece ascoltare questa trasmissione, risulterebbe una percentuale di prostituzione del 90.9%, cosa che evidentemente non è, perché non credo che la prostituzione sia così però diffusa. Lasciami dire che è ricomparsa in una trasmissione del signor della Gherardesca, la signora Iside, che più volte ha telefonato qui alla Zanzara, che fa la prostituta vicino Chiasso, Iside, che ci spiega perché si va in un bordello. Allora, Martina, tu da quant'è che lavori qui in Svizzera? All'incirca un paio d'anni. Raccontami esattamente il tuo lavoro qui. Ma il mio lavoro alla base è far felici gli uomini, assecondare tutte le loro fantasie, anche perché secondo me si viene nei bordelli prettamente per evadere dalla routine della vita di coppia. Vabbè, non mi pare particolarmente originale questa cosa, eh. Si viene nel bordello per evadere dalla routine di coppia. Poi comunque si fa chiamare Martina, ma in realtà è il nome d'arte Iside. Il nome d'arte. L'abbiamo riconosciuta noi, l'abbiamo riconosciuta. I nostri amici, i nostri inviati nei bordelli ci hanno detto... C'è quel maiale di Mercusa. Quello mica va nei bordelli, no? Questo. Dice che comunque guadagna 20.000 euro al mese, eh. Chi? 20.000 al mese. Signora Iside, 20.000 al mese. Come funziona il tuo lavoro? Quanto guadagni? All'incirca, facendo una stima, siamo intorno alle 20 al mese. Martina guadagna 20.000 euro al mese. 20, a volte qualcosa in più. Ci sono tante varianti. È la libera professione. Vabbè. Alberto da Reggio Emilia, vai Alberto. Pronto? Dimmi Alberto. Buongiorno, Cruciani, buongiorno Parenzo. Dimmi. No, buongiorno, no, perché siamo stasera. Buonasera, vabbè, ragazzi, non ce ne frega niente dei convenevoli. Dai, Alberto, su. Allora, niente, io volevo parlare di Alfano. Sì, cioè? Secondo me è un personaggio che, ragazzi, cioè, è un personaggio di destra che vuole ottenere il 5% senza Renzi. Cioè, è una cosa non scontata. Ma di che stai parlando, scusa? Io non ho capito cosa sta dicendo questo qua. Praticamente Alfano se n'è andato da Renzi, ha detto che non vuole più avere niente a che fare col PD. Dunque? Dunque vuole avere una rinascita e dunque io voglio sapere se arriva al 5% se lui è un personaggio politico. No, tu devi andare a fare in culo, è molto semplice. Fulvio da Treviso, Fulvio, vai a fare in culo. Fulvio da Treviso, dai. Fulvio. Cruciani. Dimmi. Io voglio dire che gli immigrati sono come i ragni, sono dappertutto. Ecco un altro. Ma vai, dimmi, Fulvio, dai, cosa, forza, però una parla, cosa deve fare, ragazzi, questa però, gente parliamo qua? Ma dimmelo, dimmelo, allora, tu, però, Fulvio, cosa vuoi fare, Fulvio, questa dimmi, gente qua? Dimmi, che cosa vuoi da noi? Dimmi. Sono come i ragni. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Non vuol dire niente, dimmi, non come? Vuol dire nulla. Sono dappertutto, sono dappertutto e nessuno, nessuno fa niente. Sì, nessuno basta, solo niente. Questo vuoi dire? Di. Solo questo vuoi dire? Di. Vabbè, lascia perdere, sei un cretino. Ma lascia perdere? Solo questo vuoi dire? Vuoi dire solo questo? Di, lascia perdere. Vabbè, Filippo da Vicenza, vai. Allo sto giro. Filippo, eccolo. Sì, che c'è, dimmi. E con calma, eh. No, Andrea da Pescara, questo già mi ha rotto i coglioni. Andrea da Pescara, vai. Andrea, ciao. Dai. Ciao, Andrea, ciao, da Pescara. Cruzio. Dimmi, ciao. Dimmi. Allora, noi siamo dei ragazzi, studiamo a Milano al Politecnico, stiamo andando a festeggiare il Ramadan con dei nostri amici musulmani che ci hanno invitato. No, paura. Abbiamo non sappiamo come comportarci, te lo dici tu per piacere. Ma io non, non devo, non devo, non devo suggerire cruciale. Nulla a nessuno, amico mio. Cioè, vai, vai dove ti pare, vai a festeggiare il Ramadan con i tuoi amici muslim, va benissimo, per carità. Cioè, sì, ma sarà vero. No. Io non come ci non credo. Sarà vero? Non è che ho detto che andiamo sulla Luna, andiamo, non ci andiamo credo. A... Ma va bene, ma va allora, bene. Andate lì, registrate l'audio. Ma, poi non è che c'è, ma non c'è la festa del Ramadan, non esiste da nessuna sì, parte no, la festa vero, del sera, Ramadan. Ma loro iniziano a mangiare, sì, come la festa c'è la festa vero, ma vabbè, vai, vai, vai, vai, vai, allora? Andiamo, andiamo, voglio dire... Ma che vuoi da me? Vai al Ramadan con i tuoi amici muslimi, che cazzo vuoi da me? Ti volevo anche chiedere un consiglio, ma non a te. Ma non c'è nessun consiglio, ma non c'è nessun consiglio. Ma consiglio, ma consiglio di che cosa? Su che cosa? Questa religione con curiosità, esatto, e non con pregiudizio. Esatto, questo è il esatto. consiglio che la maggioranza silenziosa vi dà, noi. Ragazzi. Vabbè, ma c'era bisogno, c'era bisogno di chiamare per dirci questa stronzata? No, che stai andando a Ramadan, che stai andando. Ma no, ma non frega nulla nemmeno a Parenzo. No, neanche a me. Di questa informazione che tu stai facendo. Stai andando con degli amici a Ramadan, non è che poi c'è l'incontro del Ramadan. Non c'è nulla, non c'è niente, nulla, sono balle colossali. Sei uno che racconta delle palle. Sei uno che racconta delle balle colossali. Ciao, ciao, ciao, ciao. Gentili signori di Radio Gamma 5, di Radio Gamma 5, continuano ad attaccarci. Questo signore, che è un, credo, un veterinario, che si chiama Paolo Girotto, che fa parte dell'associazione contro i vaccini, associazioni contro i vaccini del Veneto, mamma mia. Ti attacca ancora dicendo che tu minacci di smontare il nostro ripetitore, che è una cosa gravissima. No, prenderemo i nostri provvedimenti. Vai, prendi tutti quei provvedimenti che vuoi, no, Girotto. No, ho detto semplicemente, non ce ne frega nulla. Qualcuno per caso. È il caso, eh? Sì. Io non dico di farlo, dico semplicemente che se qualcuno per caso la notte incontrasse i ripetitori della radio antivaccini per caso e fosse munito di quelle pinze, delle cose, per caso smontasse, per caso, non saresti dispiaciuto, non posso dispiacermi più di tanto. Ma non ho detto di farlo, ho detto che non posso dispiacermi più di Girotto, tanto. Girotto, Renzo sa benissimo chi è Radio Gamma 5 e sa benissimo qual è la sua storia, ed essendo ufficialmente una radio di sinistra storicamente, il parenzone che fa il neocomunista del terzo millennio ovviamente non ha detto, però dice, se quattro incappucciati di nero alle 4 di mattina salgono dove sei il ripetitore a smontarlo, magari, ecco. Bene, noi naturalmente ci riserviamo di fare i nostri passi a questo punto, perché troviamo la cosa di una gravità e... Poi mi dà del lurido infame, Cruciani. Beh, vabbè, lurido infame. Infame è brutto, lurido però, ma franca, sì, ma questo è anche frega. Abbastanza, no? Lurido, per carità, va bene. Dici sempre che non ti lavi, quindi questo non è offensivo. Il signor Cruciani. Lurido infame, ma quanto lurido, quanto lurido infame sei io che... Tommaso da Modena, vai. Pronto, pronto, Cruciani. Dimmi. Ascolta, ma adesso infame non sei sicuramente, perché ti conosco, ti seguo, infame non sei sicuramente, ma lurido lo sei però, fammelo dire. Sì, in che senso, scusa, spiegami. Nel senso che tu le fasce protette non le rispetti? No. Perché no? Perché non esistono alla radio le fasce protette. Non esistono alle radio le fasce protette? Ma non lo so, non mi interessa. Ma come non ti interessa? Non mi interessa. Ti ascoltano tutti i bambini, e ragazzi, allora, ti ascoltano. E allora chi non vuole ascoltare spegne la radio? Molto semplice. Ma che cazzo di discorso fai? Chi non vuole ascoltare, spegne la radio. Cambia canale, cambia frequenza. Parezzo, ma mi meraviglio di te. No, Parezzo, ma Tommaso, cosa vuoi? Non ho capito. Qual è la tua domanda? Perché sei intervenuto? Sei sconcio, come ti devo dire? Sei sconcio. Oh, Tommaso da Modena ha scoperto che ogni tanto parliamo di sesso. Ogni tanto parliamo di cose di dettagli che riguardano il sesso. Sì, allora? E allora devi rispettare le fasce protette. Devo rispettare le fasce. Scrivi al garante. Ma faremo chi? Noi, ma non ti preoccupare, rappresenti solo te stesso. Non è così. E chi rappresenti? Te stesso. Un'associazione. Come si chiama questa associazione? Come si chiama? Hai chiamato, dici, rappresento un'associazione. Sentiamo, come si chiama questa associazione? Lascia perdere, non ti preoccupare. Ma associazione di cosa? Della protezione dei bambini italiani? Sì, che bravo, cosa? Bravo. Come si chiama questa pseudo-associazione di cui... Ma c'è paura adesso, scusa. Ma io ho paura, ma guarda, amico mio, guarda. Ti posso assicurare che non ho nessuna paura di Tommaso da Modena né della sua pseudo-associazione. Pseudo-associazione. Perché non mi vuoi dire come si chiama, dunque io devo... Continua così. Ma continua cosa? Tu che hai chiamato, mica t'ho chiamato io. Continua a sconcertare. Beh, anche tu sei sconcio, però. Scusami, Tommaso da Modena è sconcio, però. È sconcio. Sergio, provincia di Milano, vai. Ciao Cruciani. Volevo dire che tu sei molto invidiato perché sei avanti di 20 anni. Sì, in che senso? Avanti, hai una mente avanti, ti copiano tutti e non riescono a copiarti. Io volevo intervenire per parlare di squirting. Sì, dimmi tutto sullo squirting. Allora, bravo. Così l'ascoltatore di prima da Modena, che peraltro dice di essere uno limpido, non certo delle limpido pure, poi ha chiuso la telefonata con un vaffanculo. Lui. Bravo, va bene. Comunque, Sergio, allora non ho capito, che vuoi dire sullo squirting? Dove sono tutti ormai repressi, depressi, le donne hanno bisogno di sì, però Sergio, scusami, nuove. se tu ci vuoi dire una cosa, che si sente bene, se ce la vuoi dire mentre guidi col telefono che va e viene eccetera, non capiamo nulla, per cui vai. Allora, lo so Sergio, che ti devo dire, dai, sono in colonna, vai dimmi. Allora, ogni donna può avere lo squirting, basta solo saper gestire la donna. Ecco. Beh sì, ma questo lo sapevamo, amico mio. Questo lo sapevamo. Beh, non è che c'è bisogno di Sergio, scusami se te lo dico, ma non c'è bisogno di Sergio da Milano per dirci che ogni donna, lo abbiamo già appreso in un mese di discussione sullo squirting. Dipende dalla dimensione, come diceva il professor Antinori. La dimensione è un ma no, una ma cosa quello secondaria. non parlava solo di squirting il professor Antinori, parlava di altre cose. Sì. Tu stai dicendo che l'uomo deve essere bravo e ogni donna può farlo. Esatto. Lo sappiamo. È ben felice di farlo. Ma lo sappiamo, ne siamo a conoscenza. È un mese che parliamo di questa cosa. La mia cioè, tu sei molto preparato da questo punto di vista, sei molto bravo. Sono un professore. Un professore di squirting? Di che cosa? Certo. Cioè, in che senso? Spiegami. Esiste una cattedra da cui praticamente ci sono delle donne che si rendono conto di essere felice perché hanno avuto un compagno che non li ha mai soddisfatte. E tu sei molto bravo? No, insegna la normale di Pisa. Tu sei molto bravo da questo punto di vista? Sicuramente. Beh, questo chi lo può certificare, scusa? Facci chiamare da qualcuna vera, facci chiamare da qualcuna stasera che ci dice effettivamente Sergio dalla provincia di Milano è un professore di squirting. Ma professore dove? Fermo lì. Cosa dite? Niente, mi feci fa un confermo da era un fiato, ma tu sapessi che goduria. David sta andando a trans, non c'è niente di male, è eterosessuale. David sta andando a trans, David non è cattivo, ma a volte un po' passivo, ma solo con Etherball. Ah, e vabbè, vanno a trans, se si divertono a prenderlo a quel posto, che io... La Zanzara. Oh, shit. Amico mio, fammi un favore. Manda qualche lezione su come si squirta, che glielo devo spiegare alla mia ragazza. Stamattina è venuta in farmacia una signora, 40 anni, entrata un po' titubante, la vedevo che era un po' in imbarazzo. Comunque entra e mi chiede: senta, volevo sapere se avevate gli spazzolini elettrici. Io, certo. E cosa, che marca avete? A me scappa un sorrisino, sai quando ti si allunga il labbro lateralmente, no? Dico: abbiamo allora il B, e la guardo e lei dice: esattamente quello che volevo. A me scappa da ridere, dico: amica mia. Anche lei scoppia a ridere, paga, se ne va. Siamo allo stratop. Sonia da Perugia, vai Sonia. Buonasera Cruciani. Ciao, ciao, dimmi. Ciao, io ho due cose da dirti, parto dalla più leggera e dalla più pesante. Quello che ti pare. Buono. Quello che ti pare. Allora, io ti volevo parlare di Iside da 20.000 euro al mese, che faceva tanto la promoter del campo. Quando la promoter, magari... fa la mignotta, che deve fare quella? Fa la prostituta? Promuove se stessa. Cioè, che deve fare quella? Vai in la chiamano in televisione. Ma non mi sembra corretto e che rispettoso nei panni di chi l'ascolta, che magari guadagna 20.000 euro anziché al mese li guadagna all'anno. Che vuol dire? Scusa, ma se uno chiede che quanto guadagna, a parte che quella sta in Svizzera, le tasse le pagherà in Svizzera, perché quella sì, fa la prostituta in Svizzera. Ma dunque... ti sembra giusto che una 20.000 euro al mese li guadagna andandola via così a gratis senza pagare tasse? Ma non giusto, doveroso quasi. Non giusto, doveroso. Doveroso? Cioè, assolutamente, non giusto, e allora legittimo e doveroso. Siamo mogli di tutti voi mariti, hai scelto, ma se hai scelto di fare la casalinga, l'impiegata eccetera, e sei contenta, perché devi essere invidiosa, o comunque perché devi farti il sangue amaro perché una fa la mignotta e guadagna 20.000 euro? A parte che li guadagnerà, perché non mi sembra giusto, ma che lo decidi tu, ma quella fa la mignotta e guadagna 20.000 euro al mese, mi sembra pure poco rispetto a quello che fa. Ma le pagherà le tasse lì nel ma tuo amica paese? Stai in Svizzera, le paga le tasse, perché in Svizzera è regolare la prostituzione, per cui le paga certamente. Non lo sapevo, in Svizzera non lo sapevo, non e allora, lo sapevo. E allora capra. Vabbè, allora che sei diventato il Vittorio Sgarbi di turno. Vabbè, dai, su Sonia, non fare la deficiente. Poi io ti dai. Volevo parlare di vaccini. Sì, che secondo me la problematica, avendo io due bambini, la problematica, sentiamo questo è importante. No, scusa, ma io non ce l'ho il linguaggio che ci avete voi. No, la problematica, ho detto, non ti stavo, non stavo prendendo per il culo il tuo linguaggio, il tuo accento, stavo dicendo la problematica. Vai, dimmi. La doppia B, quindi magari hai presunto che sono di Perugia, ma magari abitavo a Roma. Dai, Sonia. E comunque ti volevo dire che secondo me il problema si è riproposto ora che sono arrivate tante persone al di fuori dell'Italia che non avevano la fortuna, sì. L'innovazione e la conoscenza per poter fare i vaccini, sì. E ora secondo me le conseguenze le paghiamo noi. Ma non c'entra niente i migranti con i vaccini. Ma io allora devo con la questione, ma quelle questioni, la vicenda dei vaccini con i migranti non c'entra nulla. Per una volta, solo per una volta, non hanno messo in mezzo i migranti. Non c'entra niente la questione dei vaccini. E allora, ma li tiro in ballo io perché io. Ti chiedo scusa. Ma chi è? Chi c'è là? Chi c'è? Tua nonna? Io tua madre? Se ti dico chi c'ha, io non so se. No, sicuramente non ti ricorderai di lui perché parli con migliaia di persone. Ma chi è? Chi c'è lì? La nonna? Io so Emiliano da Perugia che ci ha parlato la scorsa settimana mentre. Ma non lo so, ma Roma. Chi c'è là? C'ho il marito che è arrabbiato per i vaccini, che siamo obbligati a farli. E ci hai parlato una settimana fa con lui. Io ero a Roma per fare un controllo. Vabbè, allora. E niente, lui era. Ma perché tu non l'hai fatto? Come... C'hai figli o no tu? Io ce l'ho i figli, li farò tutti quelli che e sono. E se li fai, punto e basta. Allora. Il problema è quelli che non l'hanno fatti e che sono venuti qui in Italia e ma. Che poi. Vabbè, Salvatore della provincia di Reggio Calabria. Ciao, Sonia. Guarda tu. Che sono tra i più vaccinati. Salvatore, Sonia, scusa, tu squirti o no? Ecco, come? Tu squirti o no? Certo, ti piacerebbe? No, piacerebbe, magari a tuo marito piacerebbe. No, a mio marito. Va bene, ciao. Squirti o no? È stato un piacere. Squirti o no? Quando vuoi tu, ciao. No, ma io che c'entro? Cioè, dille a tuo marito, io non c'entro niente. Squirti o no? E mica risponda, Salvatore, provincia di Reggio Calabria, vai. Pronto? Dimmi. Buonasera, cioè, intanto sono per il libero squirtaggio generico, nessuno, cioè, non mi faccio nessuna meraviglia, è una cosa magnifica, è una cosa che va fatta, va portata avanti, sono concorde con voi. Poi il diritto devo mandare a fanculo Parenzo, visto che oramai sì, è un voto comune, lo devo fare per regolamento. Sì. Diciamo, benvenuto, grazie, buonasera, grazie. Non c'è un motivo particolare. Vai, però, vai diciamo, Salvatore, dai, non fare il cretino, dai, forza. Intanto io ce l'ho un po', diciamo, con gli immigrati, perché rompono i coglioni. Che vuol dire? Ma che vuol dire questa frase? In continuazione. Ma che vuol dire questa frase? Cosa vuol dire? Vuol dire che uno non vuol dire nulla, non vuol dire niente, non vuol dire niente. No, vuol dire qualcosa, vuol dire. Vuol dire che vuol dire? Spiegami. Che vuol dire? Ogni giorno, nulla, nulla, nulla di nulla. Giorno rompono le palle. Ma chi? Chi rompono le palle? Gli immigrati. Perché anziché andare a lavorare, continuano a chiedere. Andate a lavorare. Ma cosa chiedono? Ma cosa chiedono? Anzi, quelli che lavorano ai semafori dimostrano di volersi integrare, offrono anche un piccolo servizio, lavano i vetri sporchi delle vostre macchine borghesi. Ma voglio dire, mi sembra un'integrazione un po' virtuale. Poi ci sono quelli straordinari che vendono i fiori, ad esempio. Tu devi tornare a casa della tua fidanzata, ti sei dimenticato di comprarli. Questo qua non è un cazzo da dire, Salvatore. Non hai un cazzo da dire. Vuoi dire semplicemente che i migranti ti stanno sui coglioni, così. Così, a buffo, così, a buffo. Così, a buffo. I migranti mi stanno sui coglioni, così. I migranti mi stanno sui perché non vanno a lavorare, chissà perché. Così, tu vedi la televisione e dici, i migranti mi stanno sui coglioni. Esatto, è questo, bravo. Non vogliono andare a lavorare, no, perché non vanno a lavorare. Ma tu lavori? Tu lavori? Io sì, che mestiere fai? Io lavoro nell'elettronica, come tecnico. Tecnico dell'elettronica. Sarà vero? Sarà vero? Sarà vero? Io anche qui... con me un immigrato, fra parentesi. Vabbè, Salvatore, ciao, ti saluto. Ciao. Ne ho parlato anche con lui. Direttore pazzesco! Mettetemi Pier la Sultana, vai con Pier, vai. Povera, vai con Pier la Sultana. Santanché, però. Vai con Pier. Mi conoscevi già? Sì. So brava, eh! Ah, se dici no, so cazzi tuoi, eh! Che fino a fine mese sono al Viale Terme di Diocleziano, chiaramente il lunedì sera dalle 23. Di Traiano. Di Diocleziano, Traiano del Troiame. Me stava dimenticando! Oddio! Dove si porta a mangiar cane, il bue, l'asinello, l'orca assassina, balena, il canarino, tutta l'anima dei meglio animali vostri? Davide da Genova, dai Davide. Pronto, ciao. Ciao. Io, tanto per passare un po' in tema di sesso, un po' diverso, sono un bisex, stasera mi vedo con una coppia di amici che a lei piace molto vedere giocare noi maschietti. Questo è buono, Parenzo, questo è buono. Questo è buono. Di grazia. Come facciamo a sapere che non è tutto inventato? Ma voglio però, tra le tante Davide, notizie dai, che ci sono da commentare oggi, la vicenda di Banca Italia sull'emergenza lavoro. Che cazzo ce ne frega di queste cazzate qua. La vicenda di Maio, che parla delle primarie in estate per il 5 Stelle, accusa di inciuccio per la legge elettorale. Lei, caro Davide da Genova. Sì. Caro Davide da Genova, ci telefona per annunciarci che stasera, assieme ad altri miserabili, perché tali, miserabili? Perché vanno definiti così? Ma perché, perché miserabili? Voglio, perché non è normale. Non è normale. No, è normalissimo. Non è normale. Davide, scusami una cosa. Davide, scusami. Sono bisse, sì. Scusa, sì, come facciamo a sapere che è vero o no? È impossibile, tu potresti inventare tutto. Io sono bisex, no, io sono trisex, no, quadrisex. Io non invento niente, io sono bisex. Non mi sento gay assolutamente, mi piace la fica, e come se mi piace. Ma però tu, per tu dici, hai scoperto che ti piace anche il pisello. Sì, sì, sì. Ma perché dovrebbe interessarci a noi questa roba? Dopo svariate ricerche su giornali, internet, queste cose qua, ho trovato una coppia di Genova, perché quasi tutti lo fanno a pagamento quando leggi queste inserzioni. Tu vai con una coppia di genere, praticamente siete voi due che giocate, tu e, il, e l'uomo, diciamo. Sì, non solo, lei ci, dai, ci detta i tempi, a me piace un casino quando ci guarda, cioè, si mette lì. Secondo lei è normale tutto questo? Facciamo secondo le gare di pompe, facciamo le gare di pompe. Vabbè, cioè, adesso ragazzi, questo adesso non entriamo troppo nei dettagli, sennò non ha senso, tanto capiamo. Sì, però, capisci, senti, se uno entra troppo nei dettagli, poi si capisce magari che è tutto inventato, no Parenzo? Sembra che sia tutto inventato. No, sì. Però no, la cosa no, fondamentale è questa, il signor Davide, sia vero, signor Davide, perché? Ma non ho capito, ma se uno ha voglia di fare queste cose qua, al di là del dettaglio, non puoi far passare per normale. Perché? Non aspetta, una coppia, Davide. No, la fidanzata mi ha anche beccato, voglio dire. Vabbè, adesso oltretutto mi piace anche fare i filmini. Sì, vabbè, d'accordo. Allora, però adesso tacciati un attimo, che si taccia un attimo, Davide. Cioè, ogni cosa che in trovi più è un aggravante, ogni cosa in più è una cosa anormale. Ma perché ne trovi che anormale? Questo signore qui trova un'altra coppia di persone apparentemente normali, ma miserabili. E la moglie che dà ordine ai due maschietti dei giochi. Ma ragazzi, ma fate passare per normale delle cose che sono delle porcherie inaudite. Ma perché delle porcherie? Ma perché non funziona così il mondo? Ma va bene, ma perché telefona? Perché lo dice? Davide sta accompagnando una sua voglia, una su, un suo desiderio, una sua, come dire, una sua indole, una sua curiosità. Ma solo, beh, è una porcheria. Ma perché una porcheria devi bollare come porcheria? Ma se vi piace un mondo così, ragazzi miei, ma vi piace un mondo in cui c'è sto signore che peraltro è anche fidanzato. Davide, ti senti normale tu? Ti dico, io sono stato eterosessuale fino a 40 anni, poi guardando un filmino di questi qua mi hai scoperto, come ti una lampadina. Fermo lì. Parenzo. Sono Parenzo. Quali sono le soddisfazioni che le dà questo animale? È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. È che una bella bestia. Pagato dal Mossad. Sono Parenzo. Vabbè, c'è la soddisfazione dell'animale. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, Parenzo, per me Mauro da Mantova c'ha la chiappa chiacchierata. L'ho visto Mauro da Mantova, è veramente orrendo. Direttore pazzesco! Ma è una roba pazzesca! Naturalmente! Allora, Mattia da Milano, vai Mattia. Ciao Cruciani. Dimmi. Io sono un appassionato di FKK. Come, non ho capito? Di FKK, FKK, bordelli sì, tedeschi. Sì. Come se io non so cosa siano. Sì, sono bordelli tedeschi, sono. Non dar per scontato tedeschi. Che la gente sappia per forza FKK, cosa sono. FKK, in italiano, diciamo, italianizzando. Sei culture sì. Corpore. Sì. Vabbè. Volevo avere da te un'opinione. Oggi è entrata in vigore una legge dal 1 giugno, proprio oggi, sul fatto che in Germania bisogna utilizzare il preservativo per il bocchino. Amico mio, io che ma cosa che io cosa mi stupisco alla gente che chiama qua per queste informazioni, guarda che è veramente incredibile, cioè lo dico disarmato ormai, rassegnato. Ma io cosa vuoi che ti dica? Volevo io, avere non lo so. Ti considero un esperto del settore, cioè, non lo so, non so. Ma ci sono, ma non lo so, Mattia, io ci sono andato 2 o 3 volte in vita mia. Una volta era una, sono andato 2 o 3. Secondo me c'hai la tessera fedeltà come quella dell'IKEA. Assolutamente tessera fedeltà, ti danno pure quelle cose in omaggio, te le danno. Assolutamente no. Uno dei piaceri era andare senza. Ma cosa vuoi che ti dica? Se lo prendi a ridere pure tu. Se c'è questa legge, c'è questa legge, punto e basta. Cioè, come tutte le leggi, secondo me verranno aggirate molto facilmente, a meno che non ci sia un controllo ferro. Non lo so adesso, cioè, non ho la minima idea. Certamente fate una grande battaglia, allora. Non lo so, ma di che cosa per esempio, parlate? C'è da combattere, nel cinema porno a Los Angeles, come sai, hanno cercato di far passare in California in un referendum durante le elezioni presidenziali una legge per il preservativo. Cioè, hanno votato, le persone hanno votato e credo che non sia passata questa normativa. Sì, però ti ricordo che l'attenzione non era concentrata su questo referendum, l'attenzione all'epoca di quelle elezioni era concentrata sulle elezioni dirette, sulle elezioni dirette, non su questo referendum. In Germania sono molto preoccupati. Ma perché? Io non capisco, come fai tu da Milano a frequentare molto questi bordelli? Spiegami. Lavoro per un'azienda tedesca, sono spesso in Germania. Amico mio, dunque ti diletti, come dire, no? Ti diletti. Evo, è un vantaggio. Devi vai a Baden-Baden, che sono delle terme bellissime. Sopra Düsseldorf. Chiedo scusa. Vabbè. Cioè, sopra Düsseldorf ti vai. Tu, Cruciani, dovresti fare secondo me una guida ragionata sui bordelli d'Europa. Cioè, devi fare un libro politico in cui tu vedi l'Europa attraverso i bordelli. Questo dovresti fare, proprio mettendo anche tutto il giudizio degli ascoltatori, questi qui che chiamano, che mettono i like, che dicono quello lì è buono perché quello si può Mattia, fare. Non ti so dire, hanno deciso questo, sarà giusto così, che ti devo dire, per evitare malattie, cose, eccetera, eccetera. Ciao, Mattia. Sandro, provincia di Pisa, vai, Sandro. Incredibile. Vorrei riportare gentilmente uno stato d'animo dopo aver visto la trasmissione La Gabbia di ieri sera, dove il giorno prima vedi il G7 a Taormina, le bellezze nostre, e dall'altra parte il Cara con questi poveri che noi non riusciamo ad accogliere. E allora vorrei fare una proposta di buonsenso. Magari non sarà di consenso, ma di buonsenso. Cioè, quale sarebbe? Se non mi ricordo proposta, male, al sindaco che ospita 4 migranti ha sempre la popolazione contro e ha la cooperativa che li mette da qualche parte. Allora io dico, perché non dare 35 euro al sindaco di quel comune che ospita i migranti? Quindi 140 euro al giorno. Il sindaco prende una casa in affitto per i 4 migranti, spenderà 600 euro al mese. E al tempo stesso magari Matt paga l'affitto anche per una famiglia italiana. Lo sai che non ho capito non ho capito nulla, troppo complesso. Allora, Davide, poi uno dice che non passa a Davide da Genova che ha confessato di essere bisex e stasera ha un appuntamento con una coppia, cioè almeno ha detto una cosa chiara. Parenzo, quest'altro prima vuole mettersi al posto di Alfano, che per carità non è molto difficile, si vuole mettere al posto, che ne so, di un ministro e di uno governante, va benissimo, però ci deve far capire che cosa vuole questo signore. Non si è capito niente, nulla. Hai capito tu, Parenzo, qualche cosa? Non, niente. Niente. Meno di niente. Allora, niente. Davide, a che ora ce l'hai appuntamento con questa coppia? Ce l'ho intorno alle 10:30. Ecco, ma ho capito, ma la tua fidanzata però adesso ti riconosce, hai chiamato. Speriamo. Qui ti riconosce. Speriamo. No. Non sente Radio 24. Speriamo non che sente Radio 24. Che ti aspetti con un bastone nodoso quando torni a casa. Ma questo qua, ma ormai lo sa che sei bisex o no? Beh, ma peccato. E allora come fai adesso? E come fai? Ma lei sa che non mi può dare quella cosa che a me piace e mi chiede, cioè poi. Ma quanto vai? Quanto... È solo sesso, hai capito? No, io ma certo, per quanto ami lei, però vai con un uomo, che, cioè fai una cosa a tre con una coppia e stai con un uomo. Perversione. Però capito, Davide, voglio capire. Non si possono far passare le perversioni. Quante così, volte al mese vai? Ma può capitare che ci vado 2 volte al mese, come poi per 6 mesi non ci vediamo. Ecco, ma non hai paura che questa cosa non hai paura che questa cosa prenda il sopravvento e che vinca la tua parte omosex, che vinca la tua parte gay? No, ma io non mi sento gay assolutamente, io sono una persona normalissima, mi piace la fica, ribadisco, vedi, trombo con la fidanzata, tra l'altro ho 55 anni, mi tira ancora molto bene. Ma con la signora, ma perché non con si la signora della lettura, coppia, perché ci non vai pure? Ma certo, ci facciamo, ma certo. No, con la signora della coppia, ci vai pure con lei. Ma ce la trombiamo insieme, ci faciamo delle belle cose. Vabbè, ho capito. Perché non si legge? Ma scusi, gli do un consiglio: anziché fare tutte queste porcherie, si metta sul divano la sera, si legga il libro I Demoni di Dostoevsky. Se questo ogni tanto gli va, I Demoni è adatto per lei. Si legga I Demoni di Dostoevsky. Vabbè, ma ho capito. Ma adesso deve fare sempre queste porcherie? Sempre fissato a 55 anni, se la faccia passare, su, dai. Quanti anni hai? 55. Ha scoperto il sesso in ritardo. 40 anni, mi devo riprendermi dal tempo. Ma non ha tutti i torti, dai, questo signore non ha tutti i torti. Dai, su, dai, dai, dai. Ciao Davide, ciao. Io però sono fissato ancora su questa storia di Pizzolante, perché noi abbiamo dimenticato una cosa. Questo signore ha detto che la politica trasparente è una roba stalinista. Vogliamo risentire per un attimo il signor Pizzolante? Risentiamo per un attimo, un solo secondo. Signor Pizzolante, che nessuno conosce, del partito di Alfano, sostiene questa cosa. Sapete che il partito di Alfano, oggi Alfano ha detto non siamo più alleati col PD, certo, non collaboriamo più col PD, raggiungeremo, non faremo nessun emendamento, ci sta bene il 5%, addirittura arriveremo al 10%, dice. Secondo alcuni sondaggi potremmo arrivare anche al 10%. Signor Pizzolante, che è uno dei coordinatori del partito di Alfano, che si chiama, com'è che si chiama? Alleanza Popolare. Alternativa Popolare. Signor Pizzolante dice che la politica tutta trasparente è una roba da stalinisti. Che non l'avete detta prima questa verità, che se verità è una verità molto grave? Beh, secondo lei, se Renzi mi dice fai cadere il governo Gentiloni, io dico Renzi mi ha chiesto di far cadere il governo Gentiloni, sì, poi il governo Gentiloni rimane in piedi? Voglio dire, l'idea della trasparenza totale in politica è un'idea stalinista. Pronto? Sì, pronto, buonasera. Pronto? Buonasera, pronto? Sì, buonasera, Istituto Sondaggi Italiani, buonasera. Sì, che cosa vuole? Sì, buonasera. Lei conosce il signor Sergio Pizzolante? Sì. Pronto, lo conosce? Chi è questo Sergio Pizzolante? Beh, come scusi, chi è? Come chi è? Lei non lo conosce, signora? È un parlamentare di Alternativa Popolare. Ah, ho capito, sì. Che i genitori sono di questo paese, no? Ah, ma sì, ma lei lo conosce allora? E lui no. Lui no, non lo conosce, ma lei lo sa chi è Sergio Pizzolante? Lei lo sa chi è o no? Lei lo sa chi è o no? I genitori conosco. Sì, ma lui lo sa. Sì, ma lei lo sa che cosa fa lui o no? So che è un parlamentare. Il parlamentare di chi? Di quale partito? Non lo so, mo, che ne so. Non lo sa come si chiama il partito. Ma con chi sta? Con la sinistra? Con la destra? Con chi sta sto Sergio Pizzolante? Senti, chi ti fa queste domande? Che ne so? È l'istituto, signora. È l'Istituto Sondaggi Italiani, signora. AIDS. Senta, non avete niente da fare. No, no, io le sto chiedendo che partito è Pizzolante. Non lo so, ti dico che non lo so. Ma scusi, lei è nello stesso paese di Pizzolante, dove è nato signor Pizzolante, non lo sa? Guardi, prima i genitori erano a Salignano, adesso ma lasci sono stare a Lecce. Il problema è politico qua. Il problema è importante, questi li sono sondaggi italiani. Lei non sa di che partito è questo Pizzolante? Sente, io non lo so. Che non lo so sa, io? Vabbè, perché giustamente non lo sa. Lei sa che cos'è Alternativa Popolare? Guardi, no, è una non domanda, tempo signor. Da perdere. No, ma no, ma questa come, è... come si permette? Ma siamo questi stiamo ma lavorando, modo? Scusi, stiamo lavorando, il suo sondaggio non si insulta un partito. Aspetti, Alternativa Popolare, sa che cos'è? Niente. Ragazzi, ma che cazzo la conosce? Diciamo la verità. Questo è un ma, caso, ma nemmeno nel paese di nascita. Questo qua è nato, per carità, adesso tutto il rispetto per Pizzolante che se la prenderà, ma è un gioco, eh. Però ti fa capire come manco nel suo paese sanno che esiste Alternativa. Perché c'è un'ignoranza diffusa, terribile, invece. Castrignano del capo. Castrignano del capo. Allora, Laura da Lucca oppure Angelo da Parma, che facciamo? Aspetta. Chi è? Aspetta. Voglio fare un altro tentativo. Pronto? Sì, buonasera, Istituto Sondaggi Italiani, buonasera. Signor Pizzolante? Pronto? Pronto, Pizzolante? Fernando Ferrara, vai, Fernando. Ciao, ciao. Dimmi. Sì, ciao. Dimmi. A proposito del Ramadan, io non ho preclusioni contro di loro. No, anche qualcuno che è amico mio. Però voglio dire, il Ramadan però, lo fanno. Io non sono razzista, però. Questo è. Voglio dire, io non ho preclusioni, e però i miei colleghi. Pronto? Sì, parli. Allora, voglio dire che io con 420 euro al mese, sì, cosa c'entra il Ramadan? Molto più Ramadan di loro. Sì. Ma cosa c'entra? Ma cosa vuol dire? Ah, il digiuno, mi dispiace, ma questo non è un problema. Ma che c'entra con Ramadan questo? Scusa. No, lo volevo solo esternare questa cosa. Ma è una cazzata, è un'esternazione, una minchiata. Fernando. C'è una cazzata. Ciao, che vuol dire? Lei quanto ha di pensione? Pronto? Ho detto 420. Sei incazzato per questo? Non sono incazzato, però voglio dire che tutto questo casino per il Ramadan lo facciamo noi con 420 euro il Ramadan. Va bene? Sì, nel senso con 400, queste pensioni qui, con 420 euro lei praticamente non riesce a campare, o sbaglio? Ecco, faccio il Ramadan tutto l'anno. Addirittura il Ramadan. Come mangia lei? Per esempio, stasera che cena ha fatto? Stasera devo ancora andare a cena, adesso vedrò cosa penso. Ma comunque voglio dire, mangio. Voglio dire, tutto questo casino per il Ramadan non mi sembra una gran... Nessuno lega il Ramadan al problema dei pensionati con queste cifre. Scusi, ma perché la fa incazzare il Ramadan? Non mi fa assolutamente incazzare il Ramadan. Questi qui la fanno tanto lunga per il Ramadan che la mattina mangiano, alla sera all'imbrunire mangiano, bevono, fumano. Io ne conosco uno che mangia anche il maiale, tutte quelle robe lì. Però non disturbano nessuno, cioè voglio dire, cosa... Io non capisco veramente. Laura da Lucca, vai Laura. Pronto, ciao ragazzi. Ragazzi, voi mi dovete aiutare. Cioè, in che senso, chiamato... Laura? Spiega. Vi spiego. Allora, io premetto che non vi ho ascoltato per un po', per cui non so che cosa avete detto nel precedente mese, quindi le disquisizioni che ci sono state. Su che cosa, signora? Allora, adesso ci arrivo. Allora, innanzitutto premetto che io sono una donna incinta, quindi fatemi gli auguri, e soprattutto io ho le voglie. Tanti. Soltanto che la mia voglia non è in questo caso di qualcosa da mangiare, ma io voglio far sesso. Vabbè, adesso però, amica mia, non ci puoi venire a perculare adesso. Perché sei incinta. Ci chiami e ci dici ho le voglie, perché altrimenti vale tutto, ragazzi. Vale tutto, ma voi dovete aiutare, mi sto chiedendo una cosa. Il mio compagno non mi tromba. Ma chi se ne frega? Ma non è vero, è una cazzata questa qua. È una telefonata finta e tu sei un personaggio ridicolo. Ma non ti aiuto niente. Io passo. No, non ti aiuto. Ti mando a fare in culo. Chiaro? Ti mando a fare in culo. Chiaro? Ma chi se ne frega? No, non ti sto a ascoltare. Non ti ascolto perché sei un fake assoluto. Chiaro? Io li so riconoscere a distanza ormai. Li so riconoscere lontano un miglio. Cioè, lontano un miglio. Quello di prima era uno vero. Voleva fare una battuta sul Ramadan, il digiuno, i 420 euro di pensione. Mangia poco, secondo lui. Invece questi qua digiunano, eccetera, eccetera. Quello era uno vero che raccontava una cosa vera. Tu racconti una minchiata, una cazzata, e noi ti scopriamo facilmente, no? Ti spogliamo delle tue minchiate. Lasciamo vestita. Sì, la lasciamo vestita assolutamente, però la spogliamo delle cazzate che dice. Le sveliamo tutte. Ciao ragazzi. Ciao, domani. Naturalmente. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Direttore pazzesco! Radio 24. Libera la voglia di fare.